Buonasera a tutti. Lo scopo di questo incontro spero che venga, emerga verso la fine, se no lo renderò esplicito, ma l'inizio è segreto. E ho qua dei fogli, non l'ho preparato in maniera, ma non ho avuto proprio le forze. E tutto nasce da per me una problematicità che è anche un'unicità di Milano, cioè che nulla rimane della sua grande storia in termini urbanistici e morfologici. Porco Dio, c'è una voglia. Dai, riniziamo. Salutiamo il nuovo papa. Iniziamo. Dai, va bene, l'ho detto, cioè vuoi bestemmiare, basta, iniziamo. Ciak, buonasera a tutti. Lo scopo vero di questo incontro verrà fuori man mano, almeno mi auguro. Chiedo venia per i fogli, ma non ho avuto proprio le forze mentali per prepararli in maniera degna. Tutto nasce da una problematicità che per me ha Milano nel suo aspetto, che è anche una sua unicità, non certo grandezza. Vale a dire che nulla rimane della sua storia. Io ho sempre avuto un grande passione viscerale per il paesaggio, per alcuni aspetti del quotidiano, che li ho sempre sentiti molto molto miei fin da bambino. Una ciminiera di una vecchia industria, un muretto a secco, una mulattiera. Poi ho sempre saputo perfettamente di questi spiragli, questi voli pindarici culturali, di non riuscire a portarli nel nulla di sommo per mia incapacità legate alla parte logica, matematica, mignoniera probabilmente non sarei riuscito. Però mi sono sempre trovato molto bene, appunto visceralmente, con alcuni aspetti del paesaggio. Con Milano però, che è la mia città materna, ho sviluppato questo incesto in maniera molto tardi, pochi anni fa. È frutto di un grosso e folle studio. Mentre io credo che qualsiasi persona che ha anche una leggera infarinatura di storia dell'arte italiana, andando a Firenze, se almeno vagamente padroneggiasse il 400, riuscirebbe, non dico a capirla, ma a orientarsi, a avere un'idea uguale nella città eterna, in tutte le città italiane. A Milano è quasi impossibile. Partirei dalla Piazza del Duomo. Trovo assurdo continuare a parlare di periferie, che mi fanno abbastanza schifo, è un'idea colonialista novecentesca. Bisogna parlare di territorio a sé, e io ritornerei proprio a parlare dei centri urbani per ricapire e riequilibrare il rapporto che la città ha col territorio, che non deve essere solo colonialismo d'impresa, anche perché non c'è più l'impresa, almeno in Italia. E se noi quindi prendiamo in maniera semplice la Piazza del Duomo, è una bellissima piazza. Il mio maestro Giorgio De Chirico la metterebbe assolutamente direbbe che insomma ci sono le carte per mettere Piazza del Duomo in una piazza italiana, perché al di là della statua equestre di quell'omignolo del Savoia c'è una chiesa, addirittura un duomo. C'è anche il campanile di San Gottardo, perché si sa nei centri urbani italiani è pieno di chiese, che richiama un po' il terrazzo di Cremona o la torre di Chiaravalle. C'è il Palazzo Reale, che era il vecchio arengario, e addirittura ce n'è il nuovissimo, che era il quarto di Milano, quello fascistissimo, che è il Palazzo del Novecento. Tuttavia per me non è una piazza italiana, perché è bella, ma è perfettamente razionale, cartesiana. Non nel tipo ferrarese, sembra una piazza europea fatta un po' stile impero a tavolino. Nulla dice della grandezza di Milano, mentre la bellezza dei centri storici italiani è che tutte le ere storiche che hanno fatto grande l'Italia, il Mediterraneo e non solo, sono incastonate come pietre al fruitore che finisce a vedere una piazza o una via principale. Se poi, appunto, parlavo prima, una basilare infarinatura storico-artistica, riesce già a orientarsi. A Milano questo è impossibile. Partendo dal Duomo, che è bellissimo, ma non c'entra nulla col gotico italiano, che si instaura in maniera armoniosa col romanico sulla stessa chiesa, nelle chiese gotiche italiane, e neanche con quello d'Oltralpe, si richiama un po' quello di Colonia, ma è proprio un caso unico. la sua fondazione nel 1386, dura per secoli, è una storia complicatissima, ci passano quasi tutti i più grandi artisti italiani e non solo, ed è difficilissimo tracciarne con chiarezza una sua cronologia, una sua storia appunto, e quindi minimamente non ne parlo, è molto faticoso. Però mi serve parlare del Duomo italiano, del Duomo di Milano, perché prima sulla stessa superficie sorgeva un complesso cattedrale paleocristiano, fondamentale per la storia dell'arte occidentale. Al posto del Duomo c'era la cattedrale di Santa Maria Maggiore e davanti la Basilica di Santa Tecla, con i due battisteri che sono uno Santo Stefano alle Fonti, dove c'era il Duomo, e lì davanti San Giovanni alle Fonti. Di questo complesso paleocristiano per secoli si è persa traccia, ed è una cosa incredibile. Se non che negli anni 50 dell'Ottocento l'ingegner Bignami, facendo dei lavori di ristrutturazione per delle tubature, scopre quel poco che rimaneva delle fondamenta paleocristiane. Ed è pazzesco che si è persa traccia, perché comunque qua sono stati battezzati due dei primi dottori della Chiesa, Sant'Ambrogio e poi Sant'Agostino da Sant'Ambrogio, e il Battistero di Milano è stato il primo esempio nel mondo occidentale di una struttura autonoma battesimale, ottagonale su pianta circolare. Dove c'è Palazzo Reale, che è bello, è stato in maniera continuativa, perenne, divoratrice poi del proprio passato, sorgeva l'Arengario, che era il palazzo comunale addirittura del X secolo. Dopodiché si instaurò sul Palazzo Reale, quindi sul broletto vecchio cosiddetto, si instaurò il Palazzo Visconteo, che era la residenza di Azzone Visconti, che è la Cappella Ducale San Gottardo. Qui passò Giotto tra gli anni 60 e 65 del 300, un Giotto già anziano che non lascia traccia. Ed è un'altra peculiarità, perché Giotto ovunque andò in Italia lasciò un suo profumo indelebile nelle estetiche parietali e delle pitture d'altare. Rimane un po' di giottesco una crocifissione scoperta anni 20 in San Gottardo, ma nulla di che. Dove c'è invece il Museo del Novecento, c'era l'Arengario fascistissimo. Lo stesso Martini dirà: fa niente, si fa bello brutto, l'importante è tirare giù. Lì c'era la manica lunga del Palazzo Reale. Quindi quello che vediamo non ci dice nulla della storia viscontea, benché meno medievale. A fianco al Museo del Novecento c'era il Rebecchetto, che erano delle case popolari. Era una bella architettura tipica della Milano fino all'Ottocento, fatta di stradine di caruggi e di veneziane molto strette e lunghe. Furono abbattute nell'Ottocento. Chiudiamo la piazza. Nella parte opposta della piazza, dove c'è la Galleria Vittorio Emanuele, gemella di quella a Napoli, partenopea, c'era il coperto Figini, fatto col cotto lombardo, una struttura degli anni 60-65 del 400, fatta da Cristoforo Solari. Lì ci fu il primo bar Campari, poi Camparino spostato in galleria. Venne abbattuto. Se noi andiamo dietro a Piazza del Duomo, sul lato della Piazza della Scala, che per antonomasia è la piazza milanese, Piazza della Scala nulla ci dice di cosa fu. Nel senso che il nome viene da Santa Maria della Scala, che sorgeva al posto della Scala. Prima c'erano lì le residenze dei Toriani, che era la famiglia pre-Visconti, poi battuta ad Esio, poi defenestrata da dannazzo memoria ci fu. Delle proprie residenze, ma anche di tutta la parte viscontea. Lì c'era anche una chiesa molto importante per Barnabò Visconti, sposato alla regina della Scala, quindi la cultura figurativa scaligera, venne distrutta. Dove c'è la piazza, c'è la Scala, quindi c'era Santa Maria delle Scale, Santa Maria della Scala, e dall'altra parte dove sorge, come si chiama, la Banca Commerciale Italiana, c'era San Giovanni decollato, non mi ricordo mai. Lì dietro, per andare in via Manzoni, c'era un'altra bellissima chiesa fatta probabilmente dal Bramantino, Santa Maria del Giardino. Da noi rimane il Noli Metangelo, una pittura a Brera, un'altra andò a Firenze, comunque siamo già a una piazza che è stata completamente sventrata e rifatta. Piazza della Scala, rifatta. Andiamo dietro al Duomo, Vittorio Emanuele era Santa Maria dei Servi, era via dei Servi, perché c'era Santa Maria dei Servi, andando avanti, avendo alle spalle il Duomo, andando avanti verso San Babila, sulla sinistra c'è una chiesa che io trovo orribile, però molto invadente, dell'Ottocento, che è la chiesa di San Carlo. Venne abbattuta quella che c'era prima di Santa Maria dei Servi. San Babila è una piazza fascista che non c'era, stata creata, c'era anche Corso Littorio, poi Matteotti, e tutte quelle case storiche di Milano, nella zona anche di insomma San Babila o non mi viene la via, furono completamente rifatte, abbattute. Anche a, avendo sempre alle spalle il Duomo, a destra di San Babila c'erano due palazzi neogotici veneziani abbattuti. Tornando a Piazza del Duomo, mettendoci invece, guardando il Rebecchetto, quindi la zona di Via Larga, lì fino a, da Piazza del Duomo a Piazza Diaz, la zona Missori, c'era una intera fetta di Milano che fu cancellata dal fascismo e anche dopo, che era il Bottonuto, un quartiere popolare fatto di stradine strette e malfamate. Piazza Missori è bella, ma nulla dice ancora di Milano, è completamente grigia e razionale. Lì c'era due chiese fondamentali paleocristiane, San Giovanni in Conca e San Giovanni in Laterano. San Giovanni in Conca con Luchino Visconti fu una prima parte del Palazzo Visconteo, poi con Bernabò fu una, insomma, venne completamente ristrutturata. Si salva il monumento equestre di Bernabò, che è la pinacoteca del castello. Comunque, per dire che tutto ciò che è intorno al Duomo è completamente modernissimo ed è struggente, non è un caso italiano. Rimane della parte medievale un pochino il Broletto Nuovo, che è il Palazzo della Ragione con il Palazzo degli Ossi, Iosi. Giureconsulti, il palazzo comunque è completamente tardo, cinquecentesco, seicentesco, e anche lì del cuore centrale della Milano medievale rimane questa zona. Piazza Cordusio completamente rifatta e via dicendo, Corso Europa, eccetera. È una roba che rende quasi impossibile riuscire a riconciliarsi con una cronologia estetica. Anche perché le raccolte di Milano civiche sono davvero molte, nel senso che siamo una città al mondo con più musei di storia dell'arte moderna. Se si va in questi musei è difficilissimo, ci vuole proprio un salto di studio matto e disperato, riuscire a ricollegare i reperti, che sembrano tasselli di un mosaico scomparso, con la storia di Milano. Nel senso che magari ci sono dei pezzi di capitello e dei busti di madonne, di anonimi lombardi, che nulla ti dicono dell'era, delle varie ere. E comunque la grandezza di Milano è che contò sempre. Fin dai tempi pagani, comunque Milano fu capitale, prima di Ravenna, del Sacro Romano Impero d'Occidente. E dunque doveva disporre di un anfiteatro, che noi sappiamo potesse, insomma, all'incirca contenere sui 20.000 persone. Non era tanto più grande dell'anfiteatro Flavio di Roma. C'erano valle ville del Bengò di Patriziato, chiaramente, delle belle ville dei ricchi del tempo. C'era le terme Erculee, della zona di verso Corsia dei Servi, quindi Vittorio Emanuele. C'era il foro, c'era il circo. C'erano tutti c'erano dei granai, dei porti fluviali, degli stabili che noi sappiamo all'incirca dove erano, ma non rimane praticamente traccia. Questa precarietà totale dell'urbanistica di Milano sicuramente è anche emblema della sua capacità di essere un ciclo continuo, un motore propulsivo di capitalismo e di cambio, di nuovi investimenti, che sempre fu. Questo gli va riconosciuto. Perché mentre nelle altre città italiane noi possiamo perfettamente, noi possiamo in qualche modo orientarci, a Milano non è possibile, però queste città così chiare urbanisticamente, tra virgolette chiare, nel 6, 7, 800 erano dei sobborghi. Sobborghi è un'esagerazione, chiaramente. Erano comunque dei paesoni provinciali, dei paesoni agricoli. Milano no. Milano continuò a essere un forte motivo di innovazione in termini stilistici, dal mobilio alla moda all'urbanistica. E quindi io credo che E non fu un caso che anche arrivando negli anni 10 e il 900 il futurismo si sviluppò a Milano, e non è un caso che il fascismo nacque a Milano, proprio perché questa spinta propulsiva delle varie capacità economiche, delle varie anche intellettuali, anche le nuove mode eccetera eccetera, questa unione delle arti, che per assurdo l'unione delle arti ci fu quando non fu ricercata dalle avanguardie, appena poi cercarono di fare la triennale non c'era più il tessuto artigianale, ma questo è una mia, vabbè, ne parleremo magari dopo. E non fu un caso appunto che si svilupparono a Milano, perché Milano fu sempre, diciamo, rispetto alle altre città italiane, fu allegra anche negli anni 30, quando la città Ferrara era alla fine un sobborgo agricolo, Mantova era la più grande collezione del mondo di storia dell'arte, era stata venduta nel 600 agli inglesi e agli altri, agli stati moderni che erano consolidati. Milano era la meno triste. Così negli anni 30, così tutti, anche gli arditi fiumani che si sbronzavano nei bar a Fiume si trovarono perfettamente a Milano, tutti gli artisti vennero lì. La Sarfatti delineò il volto del fascismo, quello meno fascista, quello più estetico, quindi ci fu anche gli ebrei come Pesaro, come appunto la Sarfatti, la Galleria al Milione, le prime avanguardie europee vennero a Milano, e questo aspetto creativo rimase anche nel dopoguerra. La Milano del boom economico, certo, perché tutta la grande industria italiana, tranne la Fiat, passò a Milano, ma anche tutte le più grandi avanguardie, anche la letteratura. Sin dalla fine del Settecento, ma specie nell'Ottocento, tutti i grandi intellettuali italiani, anche i più lontani dall'idea di città, dall'idea di Lombardia, vennero a Milano. Il Verga, tanto lontano appunto dall'ottica manzoniana del paesaggio, adorò i giardini di piazza della zona Porta Venezia. E il mio amato Giacomo, tramite Luca Giordani, venne qui nel 1827 a pubblicare le operette morali. D'Annunzio, per pagarsi i propri cani da caccia e le ville della Toscana, le ville e la tenuta in Toscana, dovette venire qui a fare i suoi bellissimi, dal punto di vista estetici, romanzi tramite Mondadori. Così Sonzogno, Treves, insomma tutta la storia dell'editoria italiana passò a Milano, e ancora oggi è la capitale del libro. Non voglio poi aprire su questo, ci sarebbe molto poi da dire, ma no, non qui. E un mio pallino che a me piace molto, anche la storia del ciclismo italiano, e quindi non solo, si creò a Milano. Dunque, tutta questa precarietà sembra una tesi un po' assurda, però, di un ciclo costante e continuo di precarietà che tutto cancella, nel senso che chi generalizza, a mio avviso, è molto un fascista, non esiste né il bianco né il nero. Quindi dire che a Milano nulla resta è un po' assurdo. Io trovo che ci sono stati dei momenti invece in cui ci fu una stabilità e rimase. E il mio scopo, cioè la mia volontà, è andarli a ricercare, inquadrare, per capire quale fu la stabilità a Milano storica e quale dovrebbe ritornare a esserci, che a mio avviso non c'è per nulla nel paesaggio e nell'urbanistica. E quindi per me questa precarietà totale è anche un gioco di parole, ma è anche abbastanza banale, evidente, data da un'instabilità politica. Un'instabilità che le altre realtà italiane non ebbero. Perché? Beh, Venezia rimase per 1100 anni autonoma, sino a Napoleone, sino a non troppi anni fa più o meno. E Venezia comunque nel 400 aveva una capacità di quasi 14.000 operai che ogni giorno muovevano navi e costruivano. Venezia per 200 anni mantenne il monopolio di creare gli specchi, ed ecco perché il segreto, il trust degli specchi, che a noi sembra nulla, però se vediamo tutte le tele del 500 veneziano, vediamo queste bellissime donne piene, molto formose, da formosa latina, piene di ori che si specchiano. Venezia era l'uno dei pochi posti in Europa dove potevi trovare degli occhiali a poco per secoli. È capitale dei bordelli anche fino al Settecento, cioè aveva un suo sfarzo e una sua storia che è perfettamente inquadrabile sia nelle pale d'altare sia nei dipinti tra virgolette pubblici che nell'urbanistica. Firenze durò sui 700 anni, comunque il dominio mediceo con vari intervalli. Si assicurò di essere la banca del papato, aveva una sua filiale in tutte le città importanti nel mondo, in Europa. Non ci fu l'euro, ma c'era per molto tempo la moneta medicea come valuta riconosciuta da tutti gli stati europei. E anche quando non ci furono più i garanti di questa stabilità come Cosimo Medici, Cosimo Vecchio e Lorenzo il Magnifico, Firenze elesse tre papi, Milano non riuscì mai. Tre papi non indifferenti, specialmente nelle guerre d'Italia, Leone X, Clemente VII, insomma definirono la figurazione, i poteri dell'Italia del tempo, che rimasero sino poi alla fine del Cinquecento, con la fine delle guerre d'Italia e l'incursione poi spagnola. I Gonzaga, Mantova, comunque stettero 400 anni. Gli Este sui 300 anni, e tutte queste signorie riuscirono ad avere dei rapporti di forza che gli consentirono una stabilità, nel senso che Venezia aveva le proprie garanzie economiche di produzione, di capacità ancora di, anche se erano avanzati gli arabi negli anni 50 del 400, gli arabi, il movimento ottomano, musulmano, la presa di Costantinopoli, Venezia continuò a commercializzare molto e a prendere anche l'entroterra. Firenze era la capacità bancaria più importante d'Europa. Le altre città, con dei giochi politici, riuscirono a mantenersi stabili. Una stabilità che poi si perse, divennero delle povere città, ma ci fu la Chiesa. Il sogno di Papa Sisto IV, che morì di bile, non ce la fece, e di creare uno Stato sempre più forte che andava a soppiantarsi sulle signorie italiane, e così riuscire. Quindi anche Parma, Piacenza, Reggio Emilia, la stessa Ferrara, addirittura Ancona, finirono tutte sotto il dominio della Chiesa, che magari non le elogiò da un punto di vista come libertà culturale, o non le caratterizzò per una vivacità economica come Milano, ma le mantenne urbanisticamente. Milano, per me, invece, dunque, diciamo che per anni mi sono domandato perché Milano non aveva questa stabilità, perché a Milano non è quasi mai capitato rispetto al resto d'Italia. E quando facevo questa domanda alla maggior parte degli appassionati d'arte e a qualche professore, per lo più appassionati d'arte, mai a professori di storia contemporanea, perché piuttosto che farsi le domande si sarebbero ammazzati. Ma la risposta, che non è falsa ma in parte vera, è che Milano sorge in una zona ricca di acqua, lontana da importanti materie prime sedimentari. Effettivamente questo spiega il cotto romanico, dunque la Cagrande in mattoni, Sant'Ambrogio in mattoni, San Michele in Cerdola Pavia in mattoni, tutte le nostre più belle chiese, Santa Maria delle Grazie, quindi i mattoni sono fatti lì per lì con l'argilla e non c'è bisogno di avere una montagna molto vicina. E questo non è una tesi proprio campata per aria, perché effettivamente, se ci si interessa in maniera molto semplice, cioè banale, di archeologia tardo antica o del mondo classico, si scopre che a Milano ovunque ci fu delle importanti sedi romane, pagane, addirittura scavando non c'è traccia di fondamenta. Uno può dire sono stati abbattuti da un punto di vista dell'immobile, ma la fondamenta deve esserci. A Milano addirittura sotto, per esempio, a San Lorenzo, un'altra chiesa fondamentale per la pianta centrale a occidente, che era una zona, passava Vettabbia, insomma una zona ricca d'acqua, quasi paludosa, quasi, troviamo dei pezzi di capitelli, di colonne, tutti di ville pagane. Quindi pur di avere della pietra venivano abbattute e messe come base. E ugualmente sotto al tempio magari pagano veniva tolto tutto, le fondamenta, per utilizzarle. E quindi vediamo che sotto San Lorenzo ci sono un sacco di pezzi detriti di abitazione pagane, quindi romane, e le stesse le colonne di San Lorenzo, chissà da dove arrivano, da qualche villa di qualche signore, si presume, che forse poi era un quadriportico della chiesa, non si sa. Santa Maria del Carmine, che era molto più antica, comunque Francesco Sforza riutilizzò delle parti del castello Visconti abbattuto, che era in Portagiova, il castello sforzesco prima, dalla popolazione durante la Repubblica Ambrosiana, bla bla bla. E così questo riutilizzo dello spoglio durò per secoli. Anche Napoleone, quando fa l'arena, prende parte delle mura, delle mura del castello Sforzesco fatto a pianta stellare. Però a me non mi ha mai convinto questa tesi. È vera, ma non mi convince, perché per me volere è potere. E specialmente, è un gioco di parole, ma specialmente chi il potere ce l'ha è uno dei poteri più ricchi d'Europa nel mondo antico. Quindi il Duomo è bianco, il marmo viene da Candoglia, si voleva fare e arrivò tramite il laghetto di Santo Stefano, tutte le vie d'acqua si porta il marmo. Un po' arrivava anche dalla zona di Valdossola, ma era dominio protestante, quindi non si poteva dire, costava meno. La Certosa di Pavia è splendida ed è bianca la facciata, l'unica colorata insieme alla facciata d'Orvieto. Quindi questa tesi già non mi convince. Per dare una risposta che è completamente possibile, ma non certa, sono andato a rivedere un po' la storia economica di Milano. E per capire la storia economica devi basarti anche sulla geografia. Milano, in maniera evidente, il Ducato di Milano, ma anche Milano nei secoli, si trova a nord dell'Italia e ha alle spalle, oltre Alpe, dei grandi poteri molto stabili, anche oggi, ma per secoli. C'era il Regno di Francia e c'era il Sacro Romano Impero, che poi divenne Asburgo. E questo fu sempre motivo di incertezza e di paura per Milano. Tutti i più potenti signori di Milano dovettero in qualche modo dovettero pregare, combattere, sprecare gran parte dei denari pubblici dello Stato, che erano tantissimi, per avere dai poteri d'Oltralpe una certificazione. Cioè per avere una sua stabilità, perché non ce l'avevano. Dall'altra parte, e questo dai tempi dei Visconti, dagli Sforza e dopo, cioè mi viene così a pensare quanti signori. Ludovico il Moro morì in Francia, il figlio di Gian Galeazzo Maria Sforza, Francesco, fu portato via da Luigi XII. Quando arrivò da noi si prese tutti i libri della biblioteca Viscontea Pavia, 400, e morì in Francia. Il figlio di Ludovico il Moro, Massimiliano I, morì in Francia. Trivulzio, per fortuna, poi lo portarono via, morì in Francia. E già dai Visconti tutti cercarono di sposarsi o di gemellarsi con l'impero francese, da Gian Galeazzo, da Filippo Maria, e questo fu anche il problema, che poi la Francia voleva poi ereditare il Ducato di Milano appena c'era un problema di precarietà, una morte di un signore di Milano. Quindi il motivo geografico, uno, che Milano è proprio la prima lì, e tutti lì che si affaccia sui grandi regni stabili d'Europa. L'altra, e anche gli altri stati italiani di questo erano felici, cioè gli altri stati italiani erano molto fieri della loro lontananza geografica, che questi loro signori si trovavano prima a Milano e quindi dovevano prima rapportarsi con Milano, e anche la grandezza di Milano, che è stata per secoli una delle più importanti città d'Europa, era in qualche modo sempre aveva una sua fragilità totale per questo contesto geografico. Se noi pensiamo per esempio al Regno di Savoia, era in parte francese, la Savoia l'abbia regalata con la guerra d'indipendenza. Loro non avevano questo problema, perché fu tenuto la loro indipendenza, anche perché era uno stato cuscinetto che separava un po', aiutava ad andare contro a Milano, era vicino alla Francia. Un altro motivo, sempre della geografia, è che Milano sta in una zona tra le più fertili, non solo d'Europa. Noi oggi facciamo di tutto per cementificare e perdere la porosità di questa pianura. Però questo comportava una ricchezza incredibile in termini agricoli, e quindi non solo. Questa ricchezza fece di elevare città lombarde una smania di dominio per secoli. Non ci fu mai concordia tra le città lombarde. È molto importante per me la storia dei comuni. I comuni sono l'emblema, che poi è la storia d'Italia, di una concordia che non c'è mai stata. Quindi abbiamo Cremona, che era una delle città più ricche e più belle che potesse esserci in Europa nel 200, che giurò sempre l'odio totale per secoli medievali a Milano. Milano distrusse Lodi, che fu ritirata su dal Barbarossa, quindi Lodi non vedeva l'ora di avere un aiuto d'Oltralpe contro Milano. Como uguale, fu annessa e distrutta da Milano, fu sempre giurata nemica di Milano. E quindi vediamo nel momento anche sommo della battaglia di Legnano, finalmente tutti si mettono insieme, i comuni, e riescono a vincere il Sacro Romano Impero e sarebbero potuti diventare un soggetto politico fortissimo. Vediamo un momento di unità, perché poi quando c'è paura di veramente una potenza forestiera che ti domina, lì ti metti insieme, ma per il resto si disgregò subito. Sia col Barbarossa, che distrusse Milano, i milanesi la rifecero ancora più bella e più ricca, la distrusse completamente, sia con suo nipote, che per me è l'unico vero re d'Italia, Federico II di Svevia. In ugual contesto, fino all'ultimo, tutti i comuni erano contro Milano. Quindi per me il fattore storico-economico e geografico conta tantissimo per capire questa precarietà. Tuttavia, appunto, riprendendo prima il discorso che generalizzare un fenomeno fascista non può essere realtà bianca e nera, è assurdo dire che nulla rimane. Per me ci sono dei momenti invece che rimangono, pochi, che momenti di politica che diede stabilità all'urbanistica di Milano, e che tutto ciò che noi oggi pensiamo come emblematica di Milano, quelle due o tre chiese, quella piazza, viene fatta la gran parte in questi momenti. Il primo per me è sotto Sant'Ambrogio. L'altra volta mi sono dilungato molto, che mi piace come periodo, ma no, non ha senso. Detto in maniera veloce, Ambrogio era pagano, in odor di cristianesimo per madre, nacque a Treviri, città dove nacque anche Marx, in Germania, venne chiamato a Milano perché tanto Milano era molto ricca e potente, era stata capitale, c'era l'editto di Milano di Costantino, anche se era già stato fatto da Gallieno, comunque Milano era ancora molto importante. E c'era il momento della vera e propria guerra ideologica tra ariani e cattolici poi dell'editto di Nicea del 325, cioè come noi intendiamo la natura di Cristo, che non è facile da capire, infatti capisco anche la parte ariana, che dice in sostanza che sì, Cristo è figlio di Dio, ma è anche Dio, cioè è la stessa parte che si fa peccatore, si fa uomo, ma è sempre lui. Ambrogio viene a Milano un attimo come governatore per capire questa situazione. Cultura classica, ottimamente, bravo politico, da cattolico non mi piace, ma da milanese sacro. Ambrogio riuscì a far emergere la municipalità di Milano nel cristianesimo, che sembra una roba da poca, ma per due cose, riassumendo senza dilungarmi su Ambrogio, per due cose principali. L'una è che riuscì non a dominare, ma a far convergere la mentalità imperiale ancora legata un po' a un'idea orientale con vari culti, un caos, si pensa agli ariani, con invece un'indipendenza di Milano e con un cristianesimo cattolico europeo che si definiva Milano, con rito ambrosiano. Per esempio, quando incredibile. Per esempio, quando la Giustina, la figlia di Valentino II, mi pare, voleva una chiesa a Milano anche per gli ariani, che oggi era capibile come tolleranza, c'erano tutte e due in voga, Ambrogio si chiude nella Basilica di San Vittore, che era una basilica paleocristiana preambrosiana, che chiaramente San Vittore, c'è il Museo della Storia della Tecnica, della Scienza e della Tecnica, che nulla rimane di quello che c'era prima, e c'era prima anche un tempio pagano. Si chiude lì con la popolazione milanese che ha voluto lui come vescovo, la geografia dice che lui non voleva essere vescovo, tutti lo acclamano, quindi vabbè, lui si decide a battezzarsi, a lasciare il potere laico e diventare vescovo. Si chiude lì con la popolazione, inizia a cantare, crea gli inni sacri, anche dei distici, scrive sulle pareti e fa questa formula cantata del cristianesimo. La popolazione vince e l'imperatore è costretto a non fare una chiesa per questa parte scismatica degli ariani. Quindi questa sua capacità di destreggiarsi nella politica imperiale. Seconda cosa, Ambrogio va dove c'erano stati martiri pagani e riscopre e riporta fuori i cadaveri dei martiri e crea i santi, il culto dei santi in Occidente, che è una roba di portata totale. In più ha un bel programma edilizio, perché crea le varie basiliche ambrosiane, che erano quattro. Qui vediamo Sant'Ambrogio, che è una delle chiese più belle del mondo, è l'unica chiesa di Milano dove si entra e si vede tutta la storia di Milano, l'unica. Tutti i re d'Italia, anche Napoleone, vogliono finire lì a un certo punto per essere riconosciuti. Ha una ricchezza dentro di tesori unica. È stata ristrutturata con un romanico bellissimo, armonioso, ma mantiene la sua vitalità. Mantiene la traccia paleocristiana. È una cosa che a Roma è la base, a Milano è quasi impossibile. Mentre l'arco absidale, una parte dell'abside, è ancora paleocristiano. Sotto vediamo lo stendardo di Sant'Ambrogio, fatto nel tardo Cinquecento, che nella sala degli Arazzi, nella pinacoteca del castello, e raffigura appunto l'importanza della figura di Ambrogio per la storia di Milano. Dalla parte più popolare, penso alla popolare, anti-oligarchica, ma anche lì anti-visconteo sforzesca, come la Repubblica Ambrosiana, nei tre anni della morte di Filippo Maria Sforza, Visconti, scusate, nel 1447, per tre anni era la Repubblica appunto Ambrosiana. Il carroccio, che era il carro dei vincitori, dei comuni, che era l'emblema del comune, della città medievale, del comune autonomo, era in onore di Sant'Ambrogio, si urlava viva Ambrogio, e così l'ambrogino d'oro era la moneta stampata da Ambrogio. Quindi questa figura poi verrà rilanciata e stabilizzata nella storia ufficiale da San Carlo. Un'altra chiesa è San Nazaro in Brolo, a me non piace, è fondamentale, però questa parte davanti è la cappella fatta a Trivulzio dal Bramantino, è l'unica opera architettonica al mondo che egli lasciò. Sotto ci sono gli arazzi del Bramantino, per ricollegarla alla cappella fatta al Trivulzio. Ho scelto questa volta di mettere quasi tutte le opere, sono tutte opere presenti a Milano. Perché trovo che sia fondamentale che noi con gran fatica cerchiamo di ricollegarsi alla nostra storia, perché è di quasi impossibile, e se no trovare una stabilità oggi. Questa è l'altra basilica, San Simpliciano, c'era anche San Dioniso, ma è sparita perché ci hanno fatto la zona del giardino di Porta Venezia, il Museo di Storia della Tecnica. San Simpliciano, poi rifatta da Vescovo Simplicio, bla bla bla. Un'altra chiesa, che è una delle pochissime che abbiamo paleocristiana, è Sant'Eustorgio, che è magnifica. Sant'Eustorgio, prima non c'era la Darsa nel 600, c'era il laghetto di Sant'Eustorgio, appunto, e quella zona lì ticinese. In Sant'Eustorgio c'è la cappella Portinari, di Pigello Portinari. Qui si passa a un secondo momento per me di stabilità, e fu sotto Francesco Sforza, secoli e secoli dopo. Uno potrebbe dirmi: perché Francesco Sforza e non qualsiasi visconte? Anche perché Milano sotto ai Visconti fu molto più forte che sotto Francesco Sforza. Uno dei pochi signori italiani a pensare di diventare re d'Italia, lo pensarono sempre i signori d'Oltralpe, oltre ai papi, dei signori italiani, fu Gian Galeazzo II. Gian Galeazzo Sforza, che cercò con gli aragonesi di dividersi l'Italia. A quei tempi il Ducato di Milano aveva anche Bologna, Pisa, Verona, Vicenza, Arezzo, gran parte della Toscana tranne Firenze. Era al pari, Firenze resistette, ma anche lì per culo, perché Gian Galeazzo morì nel 1402 e andò tutto in frantumi. Non tutto in frantumi, venne ripreso sapientemente, arbitrariamente, non sapientemente, da Filippo Maria Visconti, però insomma, la città sotto ai Visconti fu molto importante. Cito solo quelle cose più fondamentali per la storia dell'arte, andando un po' a scaglioni. Prima abbiamo parlato di Giotto, sotto Azzone, passò a Milano e nulla lascia traccia. Petrarca, dopo che va a Avignone, che finisce la cattività, arriva a Milano, si sente un po' con Luchino Visconti, poi rimase comunque per 8 anni qui, poi rimase in contatto, suggerì a Galeazzo II di fare una bella biblioteca a Pavia, che era capitale viscontea, era la prima e più grande e antica biblioteca d'Italia, degli stati italiani chiaramente, e i francesi pensarono bene di portare via 400 libri importantissimi. Anche perché poi fu sempre allargata la biblioteca di Pavia, prese anche quella di Bobbio, che era un'altra dei templi più antichi. E poi, pensiamo solo a Filippo Maria Visconti. A quel tempo a Milano passò sia Masolino da Panicale, che non si sa come finisce nel Varesotto a fare un angolo di Toscana, come lo devo finire D'Annunzio, ma ci passò anche prima Gentile da Fabriano, Michelozzo da Besozzo, tutti artisti che poi andarono a Venezia, no, Masolino no. E abbiamo detto Petrarca, insomma, come aneddoto per riassumere, perché comunque i Visconti era molto importante, quando arrivò nel 300 Geoffrey Chaucer nella zona del parco visconteo di Pavia, riferì in maniera, spero, realistica, che era il parco e la zona verdeggiante, ambientale più bella che fosse mai che avesse mai visto e conosciuto al mondo. C'era l'Orsaia, c'erano animali selvatici, c'era un'area che andava dalla Certosa di Pavia al Castello Sforzesco di Pavia, venne distrutta poi nelle guerre d'Italia a fine 500. Quindi insomma Milano fu importantissima per la storia dell'arte con i Visconti, ma nulla quasi rimase. Per me invece dopo Ambrogio ci va Francesco Sforza, perché lui ebbe la genialità di essere umile e di creare la Concordia. Partecipò insieme a quel genio di Cosimo I, suo amico Medici, alla pace di Lodi, che per 40 anni creò una pace tra i regni italiani, nei quali i regni italiani per la prima volta si fronteggiarono nella loro ricchezza in termini estetici, costruendo il Rinascimento, il pre-Rinascimento, un primo Rinascimento. Cioè in bellezza si destreggiarono senza più distruggersi. Una pace molto precaria. In questa Concordia il Banco Medicio aiutò con prestiti importanti Milano, tanto è vero che si aprì la sede del Banco Medicio, che era nella zona del Corso Magenta e che tutta era fatta da cotto lombardo con dentro affreschi del Foppa, chiaramente svenduta, sventrata nell'Ottocento. Rimane la Cappella Portinari è fatta secondo un'idea che richiama un po' Brunelleschi, molto armoniosa, molto l'intonaco bianco, tutta questa sua lontano dal gotico d'Oltralpe lombardo, è proprio fiorentina, e all'interno viene messa quest'arca di un toscano, Giovanni Balduccio, che fu uno dei grandi artisti che passarono a Milano dai Visconti. L'arca, e dentro c'è San Pietro Martire, che era santo dei Toriani e dei Visconti. Non era un grande santo, uccideva molto gli eretici, ma lo fecero fuori e divenne il loro santo. Qui vediamo il Foppa. È un artista su cui si potrebbe, è stato riscoperto finalmente negli ultimi 20 anni, si potrebbe dire tantissimo, ma non ha senso. Comunque vediamo già un artista capace negli anni 60 sino al 1468, un artista capace lombardo che finalmente guarda riesce sapientemente a portare anche un suo realismo lontano dalla pittura d'Oltralpe a Milano. Si basta vedere gli scorci prospettici, c'è sicuramente il Donatello. Questo è il Foppa negli anni 90 del 400. È un realismo magnifico. Qui c'è però un altro partner di questa stabilità, che per me al liceo era il numero uno, fu realmente politicamente un po' un pirla, che era Ludovico il Moro, che era nipote di Francesco Sforza. Muore lo Sforza negli anni una doveva andare su, una giù, non è un grave errore. Un'altra cosa dello Sforza fondamentale è la Cagrande. Per concludere con la stabilità che lo Sforza diede fu il suo ben pensare. Uno, quindi, firmò questa pace che per 40 anni creò una solidarietà tra l'arte italiana e tra le signorie. L'altra è che anche se i denari della cassa statale erano molto deboli, spese una buona parte per creare un ospedale pubblico, che è la Cagranda. Non è il primo ospedale in Europa. In Borgogna dicono il primo, che è solo una sala per i pellegrini. Firenze ne fece uno molto bello. Comunque è il primo idea di ospedale moderno, fatto dal Filarete, altro artista che viene a Milano, sempre mediceo. Era un ospedale all'avanguardia perché aveva tutto un sistema di tubature, di ricambio dei letti, della pulizia dell'aria. All'interno delle varie corti si facevano le erbe, le medicine. Insomma, un'eredità non da poco per i milanesi. Rimase sino agli anni 30, poi nel bene o nel male, a me non piace, ci fu l'università. E non rimane veramente tanto del periodo. Beh, il Filarete fu scacciato poi dai lombardi architetti perché era un po' forestiero. Del Cotto quattrocentesco non rimane molto, poi verrà la gran parte abbattuto, però è un'eredità molto importante. La Cagrande è uno degli enti che ha più non opere d'arte ma proprietà ecclesiastiche, terre a Milano, in Lombardia e non solo, perché per secoli fu per i milanesi un'istituzione fondamentale in cui tutti i ricchi e illuminati lasciarono l'eredità alla Cagrande, ma anche terre agricole molto fruttuose in Brianza e anche nella zona di Morimondo. Vabbè, questa è la Bicocca, è una tipica villa che si svilupparono con sforza. Pian piano ci fu un attimo un compromesso tra le parti ricche e le oligarchie. Questa è una villa di campagna, la Bicocca, dove nasce quello schifo che è la Bicocca, e non rimane quasi nulla. Poi fu il centro anche museo della Pirelli, qua ci fu un incontro tra il Treves e Mussolini a duello. Vabbè. Questi due sono Francesco Sforza, fatto dal Bembo, che a Brera, Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti, una donna incredibile, che anche quando lo Sforza, nel momento più basso della vita dello Sforza, probabilmente nel 41, quando finalmente si sposa con Bianca Maria a Cremona, che era la loro città d'amore, egli deve scappare per andare a riprendere tutte le sue terre che aveva perso. Lo Sforza prima si era sposato con una nobildonna Ruffo calabrese, aveva delle terre in Calabria, si era anche guadagnato la zona delle Marche, poi prese dal Papa, che rimase Iesi fedele o minacciò di scomunica, vabbè, lui perde tutto. E quindi è erede di un ducato, ma non ha quasi soldi. Si è appena stata la Repubblica Ambrosiana, che fino all'ultimo non l'ha voluto, poi lo prende, e lui poi diventa dittatore, lo prende come mercenario per salvarsi dai francesi, che voleva l'eredità su Milano e da Venezia. E insomma, loro due, senza una grande stabilità, la crearono. Bianca Maria difese contro Venezia da sola Cremona. Prima abbiamo visto il Foppa, ecco qua un altro momento importante, che è Leonardo da Vinci. E in realtà sul Moro ci sarebbe tantissimo da dire, che a me affascina molto politicamente, perché è l'esempio di un cretino, nel senso che ebbe tantissimo e proprio non riuscì a trovare questa pace, la perse completamente. Nel senso che si trova male con le signorie italiane. Lui avrebbe potuto disegnare quello che sognava il Galeazzo Visconti, avrebbe potuto essere re d'Italia. Aveva anche i matrimoni ben combinati, dallo Sforza si erano mossi per essere tutti più o meno avvinghiati con le signorie italiane, e mandò tutto a monti. Addirittura si dice che le guerre d'Italia partirono da sua moglie, che era la Beatrice d'Este, e dalla moglie Isabella d'Aragona, dal figlio, vabbè, qui poi non voglio aprire, si dice che fu una questione di donne, cioè sua moglie Beatrice d'Este e da Isabella d'Aragona, che era la moglie del figlio di Gian Galeazzo Maria ucciso Visconti, di Galeazzo Maria Visconti ucciso, che era Gian Galeazzo Maria Sforza, anche l'altro era Sforza, scusate, perché erano figli dello Sforza. Sono un attimo perso, comunque. Ludovico sbagliò tutto, perché appunto questa guerra d'Italia fu un problema di queste due donne, perché erano tutte e due donne importanti della corte sforzesca, solo che una era la moglie del figlio del re appena, del re, del duca appena ucciso. L'altro era il quarto figlio dello Sforza, il primo figlio era il duca ucciso, che si sposa giovane con la bellissima Beatrice d'Este. E quindi tutte e due volevano, insomma, doveva essere solo uno a vincere. Riuscì Ludovico. E chiamò addirittura il re di Francia, Carlo VIII, pensando, Carlo VIII si interessava per una storia antichissima che risale a Francesco Sforza, agli Sforza, che purtroppo non ho raccontato, ma è ampia, se no. Gli Sforza è un mercenario, suo padre e suo nonno erano mercenari importanti, lui di Cigoli, loro di Cotignola, zona di Ravenna, furono chiamati un po' anche dai vari papi e poi da Filippo Maria Visconti, lui, non il padre, per destreggiarsi nell'eredità del Sud Italia, che prima era angioina, poi era aragonese. È difficile non perdermi nella parte storica, perché ci sarebbe davvero tanto da dire. Perché chi mi dice che non si riesce a trovare nel Medioevo, gli dico, però se hai in mente un attimo il 400 è quasi impossibile, perché il 400 sono fatte di incesti, dei matrimoni familiari e di cavalieri di ventura mercenari. Già il Petrarca disse agli Visconti, prendete dei uomini d'armi italiane, non sempre affidatevi ad altre potenze, ma niente. E quindi il 400 è fatto da questi grandi uomini d'armi che uno all'altro passano da Milano e poi da Venezia e continuano a cambiare bandiera. Ludovico avrei potuto fare delle cose magnifiche e portare una stabilità incredibile, perché era sposato con Beatrice d'Este. La sorella di Beatrice d'Este, Isabella d'Este, era sposata con Gonzaga. Insomma, non era mica male come signoria, anche se il sogno di Borso d'Este era fallito di unirsi insieme a Venezia e si era riusciti a ritagliare un'autonomia a sé. Gli Este erano imparentati con gli Aragona. Alfonso d'Aragona odiava Ludovico il Moro. Avrebbero potuto spartirsi l'Italia col beneplacito di Venezia e della Chiesa. Questo è tutto col senno di poi, ma è importante capire cosa perdette realmente quel momento il Ducato di Milano. Invece Ludovico chiamò il re di Francia, poi appena se ne va e che è sicuro che non tornerà mai più, prende una batosta a Carlo VIII, si mettono insieme gli regni italiani, è sicuro che non è, e riprende la sua storica battaglia contro Venezia, ma senza più l'amicizia di Firenze. Questo fu il grande scacco, mentre Francesco Sforza aveva perfettamente capito l'importanza del consolidamento politico e amichevole con Firenze. Quindi Ludovico aveva contro tutti, addirittura il padre di sua moglie cercò di avvelenarlo, l'Este, e odiava gli aragonesi, non aveva bel rapporto con né col papato né coi medici, anche perché quando scende Carlo VIII saltano i medici, arriva Savonarola, quindi e lui era convinto poi di fare delle trattative segrete con i francesi, che invece non fece. Tutto contento va avanti con le sue guerre intestine, andare da solo ricchissimo, spende quasi tutti i soldi, non tutti i soldi che aveva, una roba impensabile, per avere il riconoscimento imperiale da Massimiliano I, che in termini economici non contava nulla, nulla, non contava quanto la Francia o quanto Venezia e Firenze messe assieme, il Sacro Romano Impero del tempo. Quindi poi ricade una calata di un altro re francese in Italia e lo detronizza. E tutti gli stati italiani che erano con lui imparentati, 3 secondi prima sono con lui, appena arriva il re francese vanno da lui a salutarlo. Quindi politicamente sbagliò tutto nella sua inamicizia totale. Gli andò di culo perché gli artisti del tempo che giravano erano non migliori, ma erano insomma, solo Leonardo da Vinci non era affatto male come complessità d'ingegno. Da Firenze arrivò Leonardo da Vinci, altri artisti poi che girava nelle signorie, frutto ancora della pace di Lodi fatta da Francesco Sforza. A Roma va il Perugino, il Botticelli, e noi abbiamo Leonardo da Vinci, che era molto giovane, faceva quasi nulla, però era molto, aveva, per Leonardo la biodiversità era la sua cocaina, aveva una ricerca massima del paesaggio, e quindi Milano era l'emblema. Poi dopo dirò il perché. Qui abbiamo la statua in Piazza della Scala, che è un litter in quattro soprannominato dagli scapigliati, c'è Leonardo da Vinci con la sua cerchia di aiuti. Marco Doggiono, c'è il Boltraffio, c'è il Salai, detto Salai perché Salaino, il diavolo, era un giovane amante di Leonardo, particolare come carattere, e c'era Cesare da Sesto. Incredibilmente non misero negli anni 70 dell'Ottocento in questa statua Francesco Melzi, che invece fu il suo più fidato allievo, che dipingeva non come Leonardo ma secondo Leonardo, mentre il Salai per me interpretò come avrebbe fatto Leonardo se lui fosse stato suo allievo. Vabbè. Adesso ci sono tante, una carrellata di leonardeschi. Questa è una famosissima opera che evince la presenza di Leonardo in Lombardia. Chiaramente non sappiamo chi l'ha fatta, perché a Milano è Pala Sforzesca. Se noi vediamo la faccia della Vergine, c'è quella parte un po' androgina che è chiara di Leonardo. Vi è tuttavia ancora una bellezza lombarda nell'oro, che ricorda ancora la parte viscontea, un po' ancora goticheggiante, d'Oltralpe. E, insomma, diciamo che tutti gli artisti milanesi del tempo amarono Leonardo e riuscirono a portare la loro capacità insieme all'innovazione di Leonardo. Abbiamo visto prima quel ritratto del Foppa degli anni 90, è un Foppa molto maturo, addirittura che a un certo punto sarà scansato come Lotto, poi con Tiziano anche Foppa ritornò nella sua zona di Brescia perché aveva fatto il suo corso, diciamo, estetico e storico. Vabbè, vediamo Ludovico il Moro, Beatrice d'Este. Potrebbero essere due figli del Moro, Massimiliano I e Francesco II, che non furono certamente dei grandi politici e vendettero Milano. Furono messi su anche, vabbè. E probabilmente però il figlioletto, quello sulla sinistra, non è Massimiliano I, che sarebbe stato troppo piccolo, ma è un figliaccio dello Sforza, dello Sforza di Ludovico, fatto con Gallerani. Questo solo per dire Hermes, questo solo per dire che è Hercules, questo solo per dire che era Gallerani, quindi è la dama con Ermellino, e quindi anche il ritratto di giovane dama della Crivelli sono due opere fondamentali di Leonardo, furono fatte a Milano. Gran parte della produzione leonardesca o fu fatta a Milano o passò. Non abbiamo quasi nulla di Leonardo a Milano, l'abbiamo svenduto, ce l'hanno portato via. Abbiamo il ritratto del Musco. Abbiamo il riposo che è un po' d'acqua. Grazie. Abbiamo il ritratto del musico. Si pensava fosse il Gaffurio, che era un cappellano del Duomo. In realtà Atalante Migliorotti, probabilmente, che era un musico che accompagnò Leonardo a corte a Milano. Abbiamo la Sala delle Assi. Nel Castello Sforzesco non rimane quasi nulla delle pitture parietali fatte da Leonardo. La stessa Sala delle Assi fu rimbiancata e fu pesantemente ridipinta, un po' ancora sua. C'è il motivo vegetativo di radici, di intreccio, era la Sala del Tesoro. E poi chiaramente abbiamo la l'ultima cena del 96-97, che fu fondamentale per l'arte italiana e europea. Adesso ci sono una rassegna di leonardeschi che io non li avevo minimamente messi. Ho scelto però di metterli proprio per, uno, perché dobbiamo, credo ormai, data questa distruzione imperante che va avanti a Milano della sua urbanistica, dobbiamo trarre qualcosa di stabile, di concreto e di immediato. E Leonardo per me è l'emblema, perché è l'opera d'arte più amata, ammirata e valutata al mondo. Salvator Mundi è stato venduto a quasi 500 milioni agli Emirati, probabilmente, molto probabilmente non è neanche di Leonardo, ma non hanno voluto fare accertamenti apposta. Ma al di là di questa parte beccamente economica, tutti conoscono Leonardo. E mi è venuto in mente questo andando al Prado, perché c'è una sala dove c'è una Gioconda fatta dal... Oh cazzo. Dal Melzi, anche se la faccia forse è del Salai, comunque è quasi uguale alla Gioconda che noi conosciamo. Anzi, è più vera perché ha colori chiarissimi. La Gioconda in realtà dovrebbe essere chiarissima. Quella patina di oscurità non è leonardesca, è data dal tempo. qui abbiamo una terza Vergine delle Rocce. Due stavano a Milano, una per la chiesa di San Gottardo, una per la chiesa di San Francesco, grande, che era la seconda chiesa più grande di Milano, chiaramente abbattuta perché ci hanno fatto la caserma Garibaldi in, dove c'è Sant'Ambrogio la Cattolica, chiesa fondamentale di cui nulla rimane. Un'opera venne portata via dai francesi e un'altra venne venduta, non si pensava neanche leonardesca, la Vergine, la Vergine delle Rocce che sta a Londra. Noi ne abbiamo ancora una terza, non è di Leonardo. Scusate, se no non ce la faccio. Non è del Leonardo, è del Melzi, non mi ricordo dove si chiama. Ecco, San Michele sul Dosso, il convento Orsoline San Carlo, nella zona Sant'Ambrogio. È celata al pubblico, non viene quasi mai fatta vedere. Io questo trovo che sia una cosa incredibile. Andrebbe o espropriata o comprata a peso d'oro, rubata, qualsiasi cosa. Perché noi non abbiamo quasi nulla. Ecco, dicevo prima, a Madrid, quando vidi questa, questa replica della Gioconda fatta da un leonardesco, rimasi di stucco dal fiume di gente che rimaneva incantato e tutti volevano accorrere lì per vederla. E poi mi sono reso conto che a me sono sempre piaciuti i leonardeschi. A Milano ne abbiamo tantissimi, no, ne abbiamo ancora tanti di leonardeschi, completamente dispersi nei vari musei. Allora, io credo che la sacralità del museo sia una cosa folle, perché a parte il Louvre, che è un centro commerciale dell'imperialismo, cioè francesi presero e misero lì, c'è un po' ceramica cinese, delle statue del 700 orribili, gran parte dei quadri italiani che devono tornare all'Italia, su 500 presi da Napoleone, 260 ancora non sono tornati, tutti gli stati, gli anchiesi, addirittura gli spagnoli, ma noi no, perché ci sembrava giusto lasciarli lì per esporli al mondo. Solo la chiesa, tranne Canova, ne riportò un po', e sono fondamentali che tornino in Italia, perché raccontano molto di molti dei borghi della storia italiana. La stessa a Milano, poi chiudo, l'incoronazione di spine del 1545 del Tiziano, che era Santa Maria delle Grazie, fu un quadro fondamentale per l'arte milanese, portato via. Quindi però, nonostante tutto, continuo a perdermi, scusate, noi abbiamo questa sacralità dei musei, una roba folle. Noi abbiamo un sacco di leonardeschi dispersi in molti musei. Io credo che continuare a pensare degli allestimenti fatti negli anni 50 come il BBPR con Roger della Pinacoteca del Castello, pensarlo irremovibile e sacro, sia un'assurdità. Non è un mostro sacro. Brunelleschi era un mostro sacro che addirittura progettava le macchine per portare quei carichi. Un architetto che fa un cemento che dura 30 anni è una bella idea, ma non è questo, non è Leonardo da Vinci. E dunque il suo allestimento può essere tolto e convogliati gran parte dei leonardeschi. Trovo che sia fondamentale e sarebbe dovuto essere fatto almeno in parte con Expo, l'hanno fatto per me poco, senza poi parlare di Expo, ne parleremo dopo. Qui c'è una carrellata di leonardeschi che, se solo fossero riuniti in qualche sala, porterebbero una fiumana internazionale di gente. Questa è la terza Vergine delle Rocce. Ha un non, non amante di Leonardo, tranne il viso della Madonna, potrebbe essere perfettamente il di Leonardo. Quest'opera non è quasi mai esposta al pubblico. Cazzo. Qui abbiamo leonardesco, l'allievo per me tra i migliori, no, forse, vabbè, poi sono gusti, che è il Boltraffio. Questo è al Pol di Pezzolo, museo fondamentale. Si vede perfettamente la reinterpretazione di Leonardo, ma anche la ricerca visiva della Madonna di Leonardo. Questo richiama Ritratto di Musico, chiaramente, ed è ancora del Boltraffio ed è a Brera. Sono opere che sono disperse in mezzo a dei quadri del 400, altri del 600, ed è quasi impossibile capire il loro valore. Questa potrebbe essere un'altra, e siamo già due, Vergine delle Rocce. C'è l'idea leonardesca, chiaramente, delle tenebre, la sua ricerca che fece in Lombardia, perché per capire la cosa fondamentale di Leonardo è Milano e la Lombardia. Leonardo, ripeto, per lui la biodiversità e il paesaggio era la sua cocaina, aveva un desiderio totale, non faceva quasi un cazzo, aveva un desiderio totale di andare a capire ogni parte della realtà. Quindi le grigne, quindi aprire dei canaloni e scoprire delle grigne, quindi andare a vedere facendo il naviglio di di Paderno e le conche, che portavano dell'incoronata, andarlo a studiare, poi ne parleremo con le vie d'acqua, trasportava tutto su tela. Non è vero, trovo assurdo continuare a parlare di Leonardo ingegnere. Leonardo era pittore, anche ingegnere, esattamente come è giusto richiamare e ricordare Michelangelo come scultore, non come pittore. Leonardo, tramite la pittura, esplicitava i suoi studi. È stato il primo uomo a fare dei trattati di medicina con dei disegni anatomici, proprio perché lui il disegno era una missione per arrivare alla realtà, non era solo una commissione come per il Tiziano su cui investire poi dei soldi nel legname, eccetera. E quindi qua c'è la ricerca lombarda delle grigne, c'è la tenebra, un discorso molto ampio. Comunque questa è già una seconda Vergine delle Rocce che sta a Milano. Qui abbiamo un'altra Madonna d'impronta fortemente leonardesca, Marco al Castello questa. Qui abbiamo, è bella questa perché è esposta al Pol di Pezzoli, che ripeto è un museo stratosferico che va riconosciuto molto di più anche dai milanesi, ed è affiancata vicino a una Madonna che è dal Botticelli, ha sempre una Madonna col bambino. La Madonna qui ha questi lineamenti così dolci che vengono sicuramente dai richiami del Lippi e del Verrocchio a Firenze, ma quel bambino lì è un anonimo lombardo, si presume sia dello Giono, però è fortemente leonardesca. Sono tutti quadri che, se l'avesse un museo di una capitale europea o del mondo, almeno due o tre insieme porterebbero non so quante persone a vederli. E scoprire questi quadri non è solo scoprire, perché scoprire il 600 lombardo è un discorso manzoniano e bla bla bla, ma cioè, scoprire questi quadri è scoprire la passione e l'amore che Leonardo, cioè, li concepì tramite il paesaggio lombardo. Adesso potrei dirveli tutti, però io li guarderei, perché sennò ci si perde. Sono tutti tra Brera, Ambrosiana, c'è anche il Museo Diocesano, poi abbiamo anche, ce ne sono tanti, poi allora ci sono i leonardeschi diretti, poi Leonardo per me è molto più di Chiaravaggio, questo però non è riconosciuto, cioè è un'idea mia che credo che non valga, ma boh. Fu molto più preso come imitazione rispetto a Caravaggio, o forse Giotto no, rispetto a Caravaggio, per secoli. E quindi noi abbiamo dei giotteschi anche di seconda generazione, tra virgolette, di cui chiaramente quasi nulla si sa e quasi nulla è rimasto a Milano, però che ricordano perfettamente ancora Leonardo. Abbiamo anche Francesco Napoletano, eccolo, qui richiama. Oggi è difficile capire l'importanza di un'opera lasciata in loco nei secoli, ma il cartone della Sant'Anna, che oggi è a Londra, Leonardo lo riportò dalla Francia in Italia e lo ritrovò Bernardino Luini e il suo figlio Aurelio. Questo è chiaramente la Sant'Anna di Leonardo. Questo cartone qui fu riutilizzato per generazioni e generazioni come principio di imitazione. Qui, cosa c'è qua? Sono tanti, però per me è proprio giusto renderci conto di ancora quanta grandezza abbiamo, seppur è stata distrutta e cancellata, ed è difficile, ma dobbiamo cercare di riconciliarla in un unico percorso, proprio perché sennò... Oggi, tranne se sei un totale amante di Leonardo, che io non so, ma diventa, non ci si riesce a rendere conto della ricchezza che abbiamo. Questo è Bernardino Luini, non è certo d'epoca leonardesca, è postumo, ma abbiamo una splendida interpretazione di Leonardo, in più c'è una statuaria che potrebbe aprire tanti collegamenti artistici magnifici. Questo qui è particolare perché è stato donato da Caprotti, patron dell'Esselunga, all'Ambrosiana. L'ha strapagato, no strapagato perché già dopo 2 anni comunque l'ha ben pagato, e pensava fosse di Leonardo. Ed è il Salai. Salai era Gian Giacomo Caprotti, probabilmente suo parente. Sicuramente a lui piace che sia così. È simile al Salvator Mundi che è stato venduto, non è simile, ma non è che sia così lontano, al Salvator Mundi che è stato venduto a 450 milioni di euro... Probabilmente non è neanche leonardesco. qua si vede Leonardo proiettato, c'è tutto della Gioconda, c'è tutto del Battista, del Louvre. Qui per me la faccia, questa è fatta al Caprotti, però probabilmente del Melzi. Qui c'è ancora il ritratto del musico che viene riportato. E qui abbiamo un altro grande, quindi è stata un po' lunga, però per me è molto importante, sono i Leonardeschi. Qui abbiamo un altro grande, ritornando a Ludovico il Moro. Oltre a Leonardo c'è certamente Bramante, Donato Bramante, che viene da Urbino. Leonardo arriva nel 1482 e il Bramante arrivò a Milano nel 1878. Anche qui ci sarebbe tanto da dire il Bramante. In sostanza non fu solo un artista, Bramante fu ormai appurato un grande intellettuale. Collaborò e fu amico anche di Ambrogio Visconti, del poeta. Questa è l'unica opera su tela del Bramante, che era Chiaravalle. Qui abbiamo Casa Panigarola, fatta tutta dal Bramante. Chiaramente nulla rimane, è stato tutto portato, un po' degli strappi d'Ottocento, a Brera. Vabbè, questa è l'incisione Prevedali. Ecco, qua abbiamo San Satiro. Fa schifo come foto, devo dire, però non si vede. È l'idea bellissima di San Satiro, che c'è come lo stiacciato di un Donatelliano, che crea una profondità che non c'è, con un gioco architettonico. Qui abbiamo un altro genio totale che quasi nulla si sa, probabilmente allievo del Bramante, che è il Bramantino. Abbiamo qualcosina che fu un pazzo furioso esteticamente, che può per me richiamare Rosso Fiorentino come autonomia nel gusto, nella scena. Con anche questa donna che sembra quasi del 400 ferrarese. Un altro leonardesco. Saltando un po', perché sennò mi piacerebbe parlare più dei leonardeschi. In sostanza, però, per concludere, dei seguaci di Leonardo, Leonardo morì in Francia. I francesi subito si resero conto della grandezza di Leonardo e lo vollero a corte. Anche quando Leonardo, dopo la disfatta del Moro, va a Venezia, va per Cesare Borgia, zona sua della Romagna, a fare robe militari, va a Roma, poi va a Firenze. A Roma, quando va a Firenze, fa anche i cartoni della famosa battaglia di Anghiari, molto cara ai fiorentini, contro Milano, Viscontea. E i francesi lo vogliono, lo pretendono. E quindi morì con tutti gli onori in Francia. Pochi chilometri più in là, qualche decina, moriva invece chiuso Ludovico il Moro. E questo è una commedia italiana di Milano. Di tutta la sua eredità, un po'. Dunque, il suo vero erede fu Francesco Melzi. Fu conosciuto da Leonardo nel 1505-1506, già finito il Moro, quando Leonardo va un po' in questa bellissima villa a Vapri, e conosce, vabbè, era una famiglia influente del tempo, conosce questo giovane, dipingeva bene, se lo porta con sé, esattamente come aveva fatto col Salà in bottega. Francesco Melzi rimase fedele al maestro fino alla fine, lo accompagnò sul letto di morte in Francia e tornò in Italia con tutti i suoi scritti. Riuscì a pubblicare un trattato di pittura di Leonardo. Gli scritti passarono poi al figlio, che il figlio non se la sentì, era un corpo immane e difficilissimo da capire, se non si, cioè, di geni ce ne sono poche come Leonardo. E costui lo affidò a Leone Leoni, artista che poi se ne va in Spagna, e lì c'è la dispersione. Grazie però, poi rimase, noi abbiamo all'Ambrosiana, giusto ricordare, il Codice Atlantico. Il Codice Atlantico rimase a Villa Arconati per un po', poi quel genio, non è un genio, quell'uomo furbo di Federico Borromeo se lo porta e crea l'Ambrosiana. Questo è il cugino di Federico Borromeo, quindi come stabilità per me c'è stato Sant'Ambrogio, Francesco Sforza, Ludovico il Moro, più per le bellezze che sono passate e stanno ancora a Milano, non per il suo genio politico, e poi San Carlo. Di San Carlo è un personaggio stranissimo, sicuramente credente in quello che faceva, e non è una cosa facile per un religioso del tempo, perché fu dominato come giovinezza dalla morte, gli morì la sorella, un fratello, due madri, poi l'amante del padre, poi l'altro fratello. Suo zio era papa, quindi aveva fatto anche i suoi studi a Pavia. Il padre, loro sono ricchissimi, da generazioni di banchieri medicei venuti a tempi memori a Milano da secoli. Aveva un bel feudo ricco ad Angera, Il padre lo inquadrò nella carriera ecclesiastica. Lui andò a Roma, avrebbe potuto diventare papa o quantomeno, insomma, ambire. Decise a un certo punto, dopo la morte del fratello Federico, invece di voleva fare la vita monastica chiusa a sé, lo convince un domenicano, l'arcivescovo di Toscano, a farsi innovatore. Ecco che è il santo della Controriforma. Nel bene o nel male regolò la cristianità del tempo, che andava allo sfascio, cioè la Controriforma, che al posto che rendere una chiesa conciliarista per contro tutta la simonia, le indulgenze, i riti orgiastici pagani che ancora avevano i papi, bla bla bla, inquadra tutto in maniera razionale e dogmatica. La vera caccia delle streghe nel 600, non è nel 300. Borromeo, per essere un po' perché mi sono dilungato con i leonardeschi, per essere un po' breve, San Carlo è colui che, come Ambrogio, dialoga col potere temporaneo, col re, Milano era spagnola, con Filippo II e col Papa, ma lascia un'autonomia a Milano. Va a santificare Sant'Ambrogio, a portare il rito ambrosiano che ancora oggi c'è ed è una cosa unica nel cristianesimo, autonomo dal rito romano per piccole cose, e cerca di preservare un'identità milanese nel cristianesimo. E quindi lui era della Controriforma, girava scalzo, quando c'è la peste tutti scappano, lui invece offrì, costruì baracche per gli appestati, offrì ristoro, fece doni di pentimento, di donazioni pubbliche, ma crea una stabilità ecclesiastica in Lombardia, costruisce centinaia di chiese per tutta la Lombardia, è l'idea già manzoniana. Vicino alla morte, e il primo, prima della Controriforma, doveva immaginare che nessuno vescovo stava in loco ed era del loco, cioè il vescovo era un fortunato finito lì che se ne andava in giro a fare quel che vuole, sostanzialmente a fare il ben godi. Con la Controriforma il vescovo deve rimanere in loco, la clausura è davvero clausura, perché prima nei paesini medievali, le donne divorziate, abbandonate o per loro disgrazia andavano nel convento di clausura, andavano avanti a fare il loro mercimonio, fare il lavoro, non cambiava nulla, non c'era un registro dei battesimi, un sacco di cose, non c'era trasparenza. La Controriforma è la prima invece che crea la Chiesa come siamo abituati a concepirla, con tutto il dramma di cancellare, bloccare tutta la letteratura, quindi noi siamo rimasti un popolo che non legge dalla Controriforma, mentre di là c'è la stampa, bruciare streghe, eretici, bla bla bla. Borromeo ha un impianto statale magnifico, perché non permette né all'impero spagnolo né al Papa di occuparsi fin troppo, cioè ha delle controffensive cristiane nei termini di stregoneria, nei termini di inquisizione. Lui preferì andare contro gli eretici che contro le streghe, ci credeva alle streghe, però era molto realista, tra virgolette. Sicuramente lui credeva totalmente, perché andava e non mangiava nulla. Addirittura aveva la genialità di convocare, saper dialogare con i ricchi poteri del tempo, quindi offrirgli le migliori cene, il migliore cibo, e di nascosto non mangiare e nutrirsi di pane e acqua, perché lui proprio ci credeva. Però saper dialogare con i potenti. Va a fare le visite pastorali, che prima non esistevano, i vescovi neanche parlavano la lingua dei cittadini, spesso erano stranieri. Va nelle case degli tra virgolette, poi c'è sempre la geografia, comunque va a visitare tutto il territorio lombardo, li crea strade, li crea, beh, c'è tutta la storia dei sacromonti, lui va sempre a Varallo, anche in punto di morte, crea chiese, crea parrocchie vicino alla comunità, crea il rito ambrosiano, diventa veramente stabile a Milano e poi si fa promotore del paesaggio lombardo, non del paesaggio, dei comuni lombardi come li conosciamo. Siamo pieni nella Brianza di chiese seicentesche, per me non molto belle, però è una sicura stabilità a Milano, perché quando c'era la peste tutti se ne vogliono andare, gli spagnoli hanno già i loro debiti, non sono in grado di badare a Milano con la burocrazia, se ne fregano. San Carlo invece è sempre presente coi milanesi, con tutta la sua, possiamo vedere, visione controriformistica pesantissimo, perché voleva addirittura che i vasi delle chiese fossero nel tali ordini, che le pale d'altare non fossero più grandi di un tot, ma è una stabilità totale a Milano, portata avanti sicuramente da questa è la bellissima che è San Fedele a Milano, Pellegrino Tibaldi. Ecco, oltre a Leonardo è giusto ricordare che Caravaggio non è nato a Caravaggio ma è nato a Milano. È nato a Milano e stava battezzato a Milano, a differenza del fratello, e fu allievo del Peterzano, che poco sappiamo. Sicuramente c'è in San Maurizio, è nella Certosa di Garegnano, e qui è in San Fedele un bellissimo deposizione che come ombre ci richiama già Caravaggio. Caravaggio per secoli non è stato legato alla Lombardia, è stato grazie a Longhi. Si può perfettamente inquadrare nel 600, nelle ombre, nel realismo che all'antica presenza nell'arte italiana, naturalismo, si può ricollegare Caravaggio come figlio di un'arte lombarda. Questo è un altro che può ricordare il Caravaggio, quello bellissimo della Madonna che schiaccia il peccato del serpente, e del Figino. E questa è la canasta, e arriviamo all'Ambrosiana. Finito San Carlo, io parlerei assolutamente di suo nipote, detto in maniera veloce, Federico Borromeo. Federico Borromeo è colui che manda i suoi emissari in tutta Europa a prendere i più belli quadri del tempo. Borromeo era stato a Roma, quindi sicuramente vicino ai vescovi più importanti, che compra le cose più belle di arte classica, ma anche pensiamo a Caravaggio e i suoi mecenati, e crea l'Ambrosiana, che non è una cosa da poco, perché l'Ambrosiana abbiamo il carteggio del Raffaello, delle stanze vaticane, il cartone, abbiamo la prima natura morta, anche se forse prima ce n'è una del Figini che è privata, del Caravaggio. Abbiamo il codice atlantico che lui si fa avere dagli arconati, perché aveva lì un nipote domenicano, un cugino domenicano. Insomma, crea una stabilità, perché gran parte della storia dell'arte milanese è all'Ambrosiana, come anche molti fascicoli e libri. Pensiamo al Virgilio del Petrarca, decorato da Simone Martini, al libro di Pietro da Francesca di Luca Pacioli, un matematico che conobbe Leonardo ed è fondamentale anche per capire Leonardo. Quindi l'Ambrosiana e una gran parte dei quadri di Milano li ha tenuti quel genio di Federico Borromeo, che manda in giro per Milano, no, prima di lui, che non è un genio. C'è una parte adesso leggera, questa è veramente leggera, l'acqua, le vie d'acqua. Mi piace sempre raccontare, specie a chi quando non c'entra un cazzo, di Leonardo, è che... Dunque Leonardo, quando arriva a Milano, seppur giovane, aveva già visto... A Firenze si era reso conto dell'arte classica tramite Donatello Ghiberti e aveva già visto la sua riscoperta in termini l'umanesimo fiorentino. Dopodiché si era reso conto di una parte della filosofia greca che era stata scoperta a Firenze e della sua reinterpretazione in chiave neoplatonica. Aveva già visto le più belle ville, oreficerie, eccetera, del mondo. Gran parte aveva già visto di bellezza, aveva già fatto anche qualche festino a Terrazza Sentimento, aveva già visto un po' di cadaveri. Arriva a Milano però e rimane, perché appunto lui è innamorato della biodiversità, rimane completamente basito del rapporto che Milano ha col territorio, non tanto del 400, dello Zenale, dei due di Treviglio, dei due pittori, rimane del Butinone, dello Zenale, via dicendo, o del Foppa, rimane estasiato in una maniera quasi una pazzia, adesso è un po' romanzata chiaramente, ma si sa che lui si interessò totalmente al paesaggio di Milano, perché in soldoni il paesaggio Milano è una città che viene nella pianura padana, grazie, però la pianura padana ha la caratteristica di essere, e questo botanici pochi, ma qualche figlio di cacciatore o figlio di agricoltore di 2-3 generazioni fa sapeva bene che la pianura padana non era perfettamente levigata. Fino agli anni 40-50 aveva spesso degli avvallamenti dove si teneva dell'acqua e zampillavano delle risorgive, c'era un paesaggio ricchissimo di acque. Questo perché nella zona della pianura padana, ma anche in zone toscane, anche la zona del Veneto, tutta l'acqua che entra nella terra, nella falda più profonda dalle Alpi, emerge nelle zone di Milano. A sud anche una parte di dove ci sono i fontanili di Corbetta, eccetera, nel parco dei fontanili. Quest'acqua che emerge dalla falda freatica su un terreno impermeabile, e qui vediamo questa foto qui, è una risorgiva, è acqua potabile. purissima. Oh, purissima. E la particolarità di quest'acqua è che era potabile, non solo potabile, era tanta, era grazie a secoli di lavoro dell'uomo presente ovunque, era potabile. Non è una cosa da poco, la potabilità, ormai lo citano tutti da Expo, Vesin della Riva, quando è un milanese del 200, dice a Milano l'acqua è potabile ovunque, è incredibile. Una delle prime cause di morte in Italia fino all'Ottocento era problemi gastrointestinali dovuti alla qualità dell'acqua. E questa falda acquifera fu da secoli e secoli, Leonardo si interessa, nessuno, non c'è traccia quasi scritta del perché, fu canalizzata e qua vediamo sotto, questa è una testa di fontanile che prima erano ovunque. E sostanzialmente la facilitazione della falda freatica che esce fuori, un'acqua potabile. E il paesaggio lombardo che Leonardo si trova è pieno di queste rocce super fertili, il terreno più produttivo dal punto di vista agricolo del tempo, e la marcita. E un prato, qui c'è la neve, che è sempre irrigato con dei canali che vengono dalla risorgiva, un fontanile lì vicino. Quest'acqua che viene fuori è tra i 9 e i 12 gradi, dunque in inverno non ghiaccia mai, e questo permise per secoli sempre più tagli d'erba, cioè il terreno non ghiacciava, sempre più tagli era il petrolio, perché i cavalli potevano andare sempre di più, avere sempre rifornimento, ed è una roba unica, tant'è che anche il figlio di Francesco Sforza, Gian Maria Sforza, quando andò mandato in missione ad aiutare il re francese, dovette pagare a gran caro prezzo il fieno, non abituato, perché la pianura padana era l'unica zona dove il fieno per ospitalità si poteva anche regalare. Questa abbondanza economica creò questa rete che Leonardo studiò e ci lavorò per decenni, anche dopo Ludovico, molto dopo Ludovico, beh molto no, però un po' sì. Noi vediamo qua Milano. Milano è l'unica città nel mondo occidentale a non essere nata presso un fiume o un rivo perenne. È un'anomalia, perché per praticità tutte le città sono fatte sul mare o su un fiume. Milano no, e i Romani, ma già comunque gli Etruschi e i Celti avevano già fatto una bella programmazione di idrovie e di canali, ma i Romani deviarono il corso dell'Olona, del Seveso e di questo in mezzo che è il Nirone, che arrivava a Nirone, che via Nirone, che verso dove c'è San Maurizio, Porta Magenta, in più porta. Tutta quest'acqua entrava, poi si chiamava in maniera diversa chiaramente, e tutta quest'acqua passava per Milano, e prima per una cinta che era difensiva, poi agricola, crea la cinta dei Navigli. Insomma, è un'eredità che tutto il mondo occidentale apprese a Milano, sia i francesi, di canalizzazione. Quando dunque Milano, quando Leonardo arrivò, si trovò questa Milano con più di 300 canali, con una cinta interna di navigli, collegata tramite il Naviglio Grande, che è il patriarca dei navigli europei, che era, prima arrivava fino a Gaggiano, l'Alticinello, che è un canale, che chiaramente anche oggi c'è, che mette in collegazione le acque della Sesto Calendolo e del Lago Maggiore con Milano. Dall'altra parte non c'era il Naviglio Pavese, ma tramite Ludovico il Moro fu collegata la Martesana a Milano, quindi un ricambio delle acque del Lago Maggiore e di Como passavano a Milano, e questo portava uno splendore paesaggistico immenso e una sapiente antropizzazione delle idrovie, nel senso che c'erano, ma questo non fino a troppo tempo fa, tutte delle parti stipendiate dal Ducato di Milano che si occupavano di mantenere questo paesaggio. I Campari, da cui Campari, degli uomini assoldati al servizio militare per le barche fluviali, i vari dazi, le persone addette ai dazi, delle varie merci. A Milano si arrivavano in questo modo tutte le materie prime, i metalli pesanti, dalla Bergamasca, dalla Valsassina, e quindi c'era un ricambio di spezie che è lungo, dire adesso, il commercio fino al Novecento, è molto interessante. Leonardo si trova questa eredità unica, che poco si sapeva e poco si sa, chi l'ha fatta, quando iniziò e via dicendo, e si occupò di questo. Inoltre Leonardo è stregato da questa semplice invenzione che è la conca. La prima al mondo venne inventata a Milano nel 1438. La conca permetteva di rendere navigabile un flusso d'acqua che non era totalmente piano. Quindi quando arrivava una barca veniva, si apriva le porte, entrava dentro, si chiudevano, l'acqua defluiva e l'acqua veniva portata alla stessa altezza della barca. L'ho spiegata di merda, però permetteva a una barca di transitare in un canale che non è perfettamente piano. E Leonardo si occupò delle conche perché era un bel contenzioso al tempo e per molti secoli lo fu. Molti secoli no, però per più di 100 anni lo fu. Perché? Le bocche della conca servivano a alimentare una quantità folle di mulini che resero Milano magnifica economicamente. Mulino delle Armi, Molino Dorino, c'è ancora dietro lo schifo di motorizzazione, un vecchio mulino. E Leonardo studiò esattamente le bocche a che altezza dovevano essere, perché troppo bassa avrebbe portato via troppa acqua e quindi non c'era più troppa acqua per rendere possibile la navigazione. Troppo in alta sarebbero stati otturati. Queste sono le conche che rimangono a Milano, che sono ancora rifatte nel 500, ma in parte quelle. Una è verso la Darsena e l'altra è verso il tombone di San Marco. San Marco una è dell'Incoronata, perché c'era la chiesa dell'Incoronata, chiaramente non rimasta, e l'altra è incredibile. Non ce la faccio, scusatemi. Comunque molto importanti. Aspetta. No, non c'è. Va bene, c'è un problema che a me piace molto inquadrare la precarietà. Io mi affido sia alla storia, che uno può dire a un certo punto, boh, ci ho capito tanto quanto nulla, questo lo dici te, e io certamente non ho delle conoscenze proprio archivistiche molto, quasi nulle e né molto profonde di storia. E l'altro è con le vie d'acqua. Perché? Beh, l'emblema di Milano sono il Duomo e le vie d'acqua. Il Duomo partì negli anni 80 del 300 e le porte le cambiano il buon Pogliaghi con la centrale, le cambiano nel 900. Quindi dagli anni 80 del 300 sino a fine 800 non finì. E questo è il sintomo della precarietà di Milano. Partì quasi negli anni della, appena dopo Santa Maria del Fiore. Santa Maria del Fiore ci fu e racconta tutta la storia di Firenze e Medicea. Il Duomo racconta ben poco e fu fatto l'altro ieri. I Navigli, il sogno dei Navigli qual era? In concreto, già al tempo di Milano, di Leonardo. Il sogno dei Navigli era riuscire a portare tutta quest'acqua, la navigazione dei laghi, al Po e quindi al mare, far portare Milano le merci sul mare. Questo in 700 anni fu fatto, in 700 anni. Perché il grande problema è che dove c'è la Martesana, quando viene giù a Brivio l'acqua del lago di Como e parte il naviglio della Martesana, una parte non poteva essere, e si vede il naviglio di Paderno, non poteva essere percorsa dalle barche per vari problemi di masse, non era percorribile. Per fare quel pezzo di naviglio di Paderno, che di qualche chilometro, sicuramente costoso, Leonardo provò una sua idea, ma era troppo brillante e non si poteva essere realizzata. Poi ci fu il Misaglia, bla bla bla. Arriva sostanzialmente nel 1777. Quando arriva, dopo poco, con Nosetti, è bello che è finito l'era dei navigli in maniera vera. Perché? Perché il problema era i tempi di navigazione. Le conche erano tanto efficienti quanto lentissime. Quindi una barca ad arrivare dal lago di Como a Milano ci impiegava adesso più di un giorno probabilmente. Quindi la precarietà di Milano è la storia, il Duomo e le vie d'acqua, perché questa splendida eredità è finita. Non è che il fascismo è solo brutto e cattivo, anche le chiude perché già dall'Ottocento si volevano chiuderle e già il laghetto di Santo Stefano di Austria ce l'avevano chiuso fino al Settecento, perché queste vie d'acqua nessuno poi le finanziò, perché è finito il Moro, i francesi che tutti i regni europei riconobbero l'importanza di Milano, bla bla bla, ma non era certo casa loro, quindi tutti questi grandi progetti un po' li finanziano, un po' no, ci vogliono secoli e secoli per la burocrazia spagnola, anche gli austriaci. In 700 anni si riesce a collegare Milano al Po in maniera degna, ma ormai è benché finita l'era per l'Italia, purtroppo, delle vie d'acqua. Perché aveva dei tempi mostruosi, il Naviglio Pavese doveva essere fatto ai tempi, ma ai tempi dei tempi Viscontei ci fu prima per irrigare uno a fianco, anche con Milano, lo promettono i francesi e gli spagnoli, arriva con Napoleone, poi finisce nel 1819, non serve quasi più a nulla. Questa è la precarietà, perché Milano non ebbe una grande stabilità che gli permise di investire sui navigli, e quindi quando finalmente c'è tutti questi navigli che arrivano al Po veloce, l'economia per l'Italia e per Milano è finita. Gli altri stati invece impararono da Milano, europei, ancora oggi hanno un'economia fluviale, ma anche portuale, basta pensare a Genova, che la bandiera di Genova è la bandiera dell'Inghilterra, il porto di Genova non è che conti molto, è tutto Rotterdam, ma da secoli. È uguale Milano, un po' perché gli austriaci non permisero la navigazione a vapore sul Po, perché volevano che si usasse per le merci i propri treni, i Savoia erano incapaci uguali, e quindi c'è il problema delle vie d'acqua. Ma arrivò Expo, miliardi, ma poi milioni di progetti con Leonardo, Leonardeschi, bla bla bla, e si ha questa idea brillante che, notare che da 25 anni e passa ci sono progetti magnifici, perfetti, che non possono sbagliare di un euro, fatti e rifatti da urbanisti, studiosi, comitati cittadini, per riaprire navigli interni. Si poteva fare tranquillamente con Expo. Expo invece ebbe una bellissima idea di prendere l'acqua del Villoresi, che nasce a Gola Secca, e di creare un canale navigabile da Expo, dalla cementata di Expo in mezzo a due tangenziali che non serve a nulla, fino a Milano. Progetto bellissimo, 80 milioni, si fa questo bellissimo canale in cemento, vengono presi e espropriati dei terreni anche a gente che aveva un'azienda agricola, ma al di là dell'azienda agricola anche a gente che ci abitava lì, aveva un paesaggio, questo canale di cemento è ancora lì fermo. E l'acqua del Villoresi, l'acqua è cara, quella bella agricola, fu pagata per l'Expo e adesso è lì ferma. Questo invece, questa Expo, ed è una roba mostruosa, questo invece è l'idea della navigabilità, riaprire navigli interni. È un progetto ormai appurato, perfetto, c'è solo da impegnarsi. Non voglio entrare a citare il comitato di riaprire navigli. Non dà alcun problema di traffico, si riparte di rimettere il naviglio nella cerchia interna, via Senato Francesco Sforza, permetterebbe ancora di rendere navigabile da San Marco, che c'era un bellissimo laghetto, Tombone di San Marco, a San Lorenzo, che è patrimonio del cristianesimo d'Occidente, non solo. Si potrebbe rendere navigabile, ripensare veramente le merci a chilometro zero. Bisogna contare che Milano ha il parco agricolo più grande d'Europa, il parco sud agricolo. Milano non ha zero rapporti con questo parco, una delle aree più fertili che ci sia. Doveva essere la base di Expo. Riaprire le vie d'acqua vuole dire proprio ridare capacità al territorio e alla città di essere veramente smart city, che adesso è una parola che viene completamente snaturata come rigenerazione urbana, che è bella come campo concentramento, però nei fatti è l'opposto. Campo di concentramento, rigenerazione urbana. Il parco sud agricolo è appena dove c'è Chiaravalle fino a quasi Pavia, ed è anche l'area in Italia con più aziende agricole anche biologiche. In teoria Expo doveva nascere come una grande orto pubblico, un grande progetto di orto che si portava un modo per rilanciare la possibilità di vivere in maniera diversa. Lo stesso genio lo definì, non mi sembra una grande trovata fare un orto, perché non era attrattivo. Su questo non è colpa sua perché andò così. E di questa ricerca, che ho raccontato in maniera non degna, e ho saltato molti passaggi importanti, di questa ricerca l'unico che voglio citare, non certo lui, l'unico che voglio citare è Barbacetto. Perché quando ci fu Expo, a Milano non ci fu zero critica. Sta nascendo adesso. È sempre sintomo di quanto noi siamo legati alla stabilità e siamo precari, non ce ne frega un cazzo e nulla rimane. In sostanza, Barbacetto scrisse ai tempi, a me non ho mai preso quasi il Fatto Quotidiano, ma devo dire che sia Travaglio che Barbacetto già ai tempi di Expo analizzavano come era gestita la questione e cos'era il modello Milano che oggi noi abbiamo. In soldoni, tutta l'area Expo era un'area che non fregava nulla a nessuno, non economica, tagliata tra due tangenziali, immensa, valore molto basso. CL, che è più forte dell''Ndrangheta negli appalti della regione Lombardia ed è appurato, ed è vero, e continua a esserci all'interno anche di Sala nella commissione urbanistica, CL aveva Fiera Milano dove c'è City Life, che andava in totale crisi economica. Certo, è chiaro, non sono chiari, ma si possono intuire i motivi. Aveva due urgenze: uno, vendere City Life al miglior prezzo possibile e quindi abbassare tutte il piano regolatore, che la legge costituzionale far cementificare quanto si può vendere al privato, e così è fatto City Life. Due, con quei soldi ebbe la bellissima idea di costruire una nuova società rofiera a Pero, in un'area che era una vecchia raffineria immensa. Cosa succede? Chiaramente va ancora male come dividendi, e quindi Formigoni, il genio, tramite Expo trova una bellissima occasione, la Moratti, dove Sala aiutava, non era certo politica, però teneva i conti, ebbe la bellissima idea di far comprare allo Stato con Expo quei terreni dalla società Fiera Milano. Quindi Expo nacque in un'area pagata da denari pubblici, una roba folle, un'area tagliata fuori di Milano tra due tangenziali, e lì nacque. Questo è per dire sempre che bisogna tenere nella realtà lombarda, e questo ritorna a Sant'Ambrogio e ritorna a San Carlo, quanto è importante il capitalismo insieme al cattolicesimo. Ed è una costante, ed è perché per me dà ragione al fatto che ci sia Sant'Ambrogio, una stabilità, e San Carlo, perché c'è sempre, non c'è un pubblico, non c'è un potere laico, c'è un privato molto importante che si lega a un'economia fluida e sempre in motore. Ancora oggi è così in qualsiasi grande appalto. Di Expo ci sarebbe tanto da dire della sua storia, però non. La cosa pazzesca è che di Expo non si sanno i reali guadagni, cioè hanno detto 50 milioni, ma quello è quello che rimaneva in cassa di troppo pubblico. Non si sa quanto vendete come biglietti, perché non fu mai. Lo stesso Sala diceva che c'era un problema ai tornelli, era sicuramente cifre sottostimate. E del progetto iniziale reale di parlare delle vie d'acqua, Leonardo, parlare del territorio, in realtà finì che fu un'enorme colata di cemento, e l'unico che ai tempi, io mi trovai veramente grigio, ho iniziato a essere tanto grigio con Expo, perché veramente io quei terreni li vedevo sempre dalla macchina, cazzata, tornando da Rho, era un'area immensa, non costruita, completamente tagliata fuori da secoli, non da secoli, dall'ultima storia contemporanea dell'industria milanese, che non valevano nulla, ci andavano anche le pecore. In pochi anni ho visto, non è solo Expo, perché si pensa a Expo, ma è tutta l'area che hanno svenduto con infiltrazioni intorno, l'ho vista completamente rifatta con strade e grattacieli orribili. In pochi anni, uno scenario non apocalittico, ancora di più. Hanno avuto poi la genialità chiaramente di fare la zona anche della Merlata, che è una roba come cubatura e cemento pazzesca, e non legarla a Expo, farne come due progetti separati, ma c'era già la volontà di mettere le mani su quella parte. Adesso non vorrei dilungarmi perché già ho forato e ho fatto male, ma questa è l'area Expo. La cosa mostruosa degli ultimi anni, questa era bellissimo, scali ferroviari sovietici. Questa è è sempre Merlata. E questi qua prima, si iniziò lì con quei grattacieli che sono orribili. C'era una zona acquitrinosa. In sostanza, solo per dire la cementificazione, Milano è la prima in Europa per cementificazione. Non voglio fare robe morali come la città che deve essere green, smart city, propinata da Sala del PD, che è evidente non è tale. Ci sono dei problemi reali però. Uno è l'area più inquinata d'Europa, e non solo, per un problema della cappa e pianura padana, e quanto noi continuiamo a costruire e cementificare, con decine di morti ogni anno, decine di migliaia di morti ogni anno per patologie legate all'inquinamento. Due, abbiamo un problema concreto, perché cementificare vuol dire creare una bolla di calore, vuol dire avere dei problemi di denari per poter portare elettricità, tubature. Tre, non abbiamo più terreno coltivabile, noi la nostra impronta ecologica è praticamente impossibile che diventi positiva, da quanto siamo ormai inglobati in un'unica unità. Le città sapienti ancora che hanno una politica in Europa, cioè fanno degli argini a tutto ciò. di cementificazioni potrei parlare tanto, ma non ha senso adesso. Semplicemente ogni secondo si cementifica in Italia e in Lombardia, quindi 2-3 metri quadri, e per ricreare i primi centimetri di suolo ci vogliono 500 anni. Questo è solo per dire di quanto siamo. Non dobbiamo per nulla preoccuparci perché siamo completamente spacciati, però possiamo agire quindi in maniera molto rilassati sulle ricchezze che abbiamo. Vuoi il parco agricolo, vuoi riaprire i navigli interni, vuoi mettere insieme i leonardeschi. Sono cose abbastanza banali, però che cambierebbero molto e non costano tanto. Il problema di Milano qual è? Uno, la cementificazione. Due, negli ultimi 15 anni Milano è diventata il primo centro di investimenti urbanistici d'Europa. Perché lo è diventata? Perché la volontà di vari sindaci, purtroppo Pisapia non ebbe l'intelligenza e non volle vedere fino in fondo questo, non cambiò rotta. Dalla Moratti a Sala, poi l'esplosione. Il Comune di Milano negli ultimi anni ha abbassato le zone più basse d'Europa come oneri urbanistici, il che vuol dire che a Milano puoi costruire quanto vuoi senza rendere al pubblico. Non è solo una roba di denari pubblici non dati, perché un costruttore non dà, è un problema per la società concreta. Cioè vuol dire che se tu in un'area che è prevista, perché poi per Costituzione, noi siamo molto scemi a avere ancora una Costituzione per certe persone, ma se per Costituzione, per piano urbanistico, bla bla bla, tu puoi avere un tot di persone in un'area, quindi vuol dire che devono avere degli asili, uno spazio verde. Milano ogni persona ha meno spazio verde di qualsiasi altro cittadino italiano. Un nido, un problema di fognatura. Se tu in quell'area lì non metti degli oneri urbanistici, il privato ti può mettere quante abitanti vuole e poi c'è un problema di gestibilità di tutta questa grande persona in poco spazio. Quindi avere adesso il comune, il grande Sala, fa, è vero, abbiamo abbassato troppo gli oneri urbanistici. Il genio di Tancredi, che sta all'urbanistica come credo Emilio Fede al giornalismo, che è il destro di Sala, ha detto, ah sì, ci abbiamo perso un 100 milioni così, in realtà si presume che sia 1,5 miliardi, 2 miliardi di soldi pubblici, di soldi non dati al pubblico per gestire tutto questo premaricemento. E in più il grande problema di Milano è che tutto il piano regolatore se ne è completamente fottuto. Cioè Milano non ha fatto negli ultimi anni politica, ha fatto dei bandi, che vuol dire, io ho un terreno pubblico che vale miliardi, tra 3 anni varrà ancora più miliardi, cosa faccio? Lo vendo a 2 o 3 privati e gli permetto a loro di non tenere conto del piano regolatore, come si fa le scie, si fanno vari provvedimenti in deroghe che passano, vengono approvate su più di 400 abitazioni tali, quindi dove c'è un piccolo prefabbricato puoi tirare su un grattacielo di 40 piani senza pagare nulla di pubblico. Adesso, questa sera, che l'ho fatta male, ma volevo renderlo adesso perché è da un po' di mesi che partecipa a comitati di quartiere, o Bindellina con vari urbanisti, architetti e cittadini, o Meazza, ci sarebbe anche tanto parlare dello stadio. Adesso sta emergendo tutto. Adesso Sala fa, ah è vero, abbiamo le tasse, chiediamo oneri urbanistici pari a un paese non democratico e non europeo con la sua storia che ha. Abbiamo sbagliato, adesso sta nascendo. E tutto si gioca col nuovo piano regolatore che verrà fatto nel prossimo governo, non Sala. Problema che salerà chiaramente la destra dopo il genio di questo qua. E l'altro problema è che tutto questo grande cemento Bengodi, uno può dirmi in un pensiero non molto profondo, però vabbè, ma almeno ha dato danne. Mio padre guadagna 4.000 k, mio nonno moriva di fame vendendo ciliegi, che trova il tempo che trova. Ma qual è il problema di questo? È che tutto questo cemento è in mano a 2 o 3 privati, non è un vero bene economico. Prima c'era Ligresti, che era mafioso, adesso abbiamo Catella, che non è mafioso, il problema è che è legale. Si trova al tavolo col Comune di Milano negli ultimi anni, prende le aree pubbliche che valgono miliardi, le compra poco, ci cementifica quanto può e ci mette roba di lusso. Se noi guardiamo qualsiasi città europea, Vienna però è un caso a sé, il 60% delle abitazioni è pubblica. Tutte le città europee, se tu vai ogni cosa che lo Stato costruisce, si costruisce per case, anche si tiene conto della parte che è senza tetto popolare, si tiene conto di chi è giovane e laureato, solo in Italia la gente sta in casa fino a 30 anni e non trova casa, si tiene conto di una coppia anche non giovane però che non ha un grande reddito, insomma sono la base dell'urbanistica. Perché se no si torna neanche al 400, ma non lo so, alla Età della Pietra probabilmente come oggi. È una cosa che non esiste in nessuna città europea, quello che è diventato Milano, sia come tasso di cementificazione sia di quanto svendita di terreno pubblico, un terreno che vale miliardi. In spazi come L'esempio sono gli scali ferroviari. I 7 scali ferroviari si sarebbe potuto costruire la Milano del futuro, la città più verde d'Europa. Io sto riprendendo, devo dire, tanto di questo libro contro Milano, che è l'unico, poi chiudo, è l'unico che quando ci fu Expo, lui e Travaglio seguiva solo i processi. Io il Fatto Quotidiano non è che lo amo nel loro taglio, che ai tempi avevano Grillino, ma furono gli unici a aprire un attimo gli occhi su questa realtà che è Milano oggi, che ha dei problemi insormontabili. Cioè Milano, in qualsiasi città europea, hanno dei veri, ogni volta che per esempio uno scalo ferroviario o una caserma centrale viene venduta a un privato, il privato è obbligato a definire una parte per spazi sociali, che sia un parco, che sia un nido, oggi non esistono nidi pubblici a Milano, dare una parte a dei prezzi giusti per una famiglia che sta sotto che sta su un budget di 15.000 euro l'anno, dare un po' di edilizia popolare, bla bla bla. Milano ha saputo solo vendere parte centrale a miliardi a prezzo molto basso a due o tre privati, Catella è come l'Igressi del tempo, è divisa da due o tre società a Milano, non è che c'ha questa vivacità economica vera in quello che si vende. I cittadini non hanno guadagno e Milano ha perso 400.000 milanesi. È impossibile, se non hai un aggancio o non sei, vabbè, un briatore, ma è molto difficile farlo, né bene né male. E è un problema vero e che è assurdo che sia... Adesso sta uscendo un attimo. San Siro è un altro emblema. È il quartiere ippico più grande d'Europa, è fallito, è stato svenduto. Anche lì far fallire, vabbè, non credere nel galoppo va bene, poi quel terreno da sportivo diventa edificabile. C'era la SNAI, bla bla bla. Il fondo Ines, che ha preso la zona del Trotto, fin da subito non voleva San Siro vicino, perché ha comprato un terreno che valeva oro, non l'ha comprata tanto, ha potuto cementificare più del piano regolatore perché è pieno di deroghe che si mette a braccetto col comune, e voleva abbattere San Siro. Abbattere San Siro non ha alcun senso, non è mai stato quasi fatto in questi anni, in decenni, semplicemente perché non si sa cosa comporterebbe abbattere un'area così vasta di cemento. Sarebbe un innalzamento di polvere sottile amiantifere che butterebbe via decenni e decenni di piccoli miglioramenti all'inquinamento. Non so fin quando poi dilungarmi nelle varie cose. Il punto è questo: la cementificazione, oneri urbanistici pari a zero e vendere terreno pubblico a due o tre privati e basta. È una città che non è vivibile, non ha senso e non attrae più. Il problema è che non attrae più veri lavoratori. Gli scali ferroviari sono stati svenduti per nulla e innalzano quanto possono costruire. E niente. Sarebbe bello, adesso si sta muovendo qualcosa, sarebbe giusto rendersi conto che non abbiamo una stabilità politica e siamo una macchietta dell'urbanistica europea, non solo. Siamo un modello di città cinese, non tiene più e sta venendo fuori, non tiene più come inquinamento, non tiene più perché un giovane non può stare, un giovanatore non può stare, per i problemi di disagio. A Milano solo il 3% dei richiedenti trovano case popolari. E ha rotto i coglioni quelli del PD a dire che è sempre colpa di Regione Lombardia, perché il PD il Comune di Milano ha tantissime case popolari occupate, ma quattro volte di più sfitte non usate, e che si venderanno a privati perché si vogliono costruire le nuove fuori, perché il centro è venduto a due o tre privati e basta. È un problema che è venuto fuori e sarà sempre peggio negli anni, come criminalità eccetera. Basta, ho già sforato tanto. E non è andata massimamente, però spero che il senso sia valso. Grazie. Sì, cazzo, 11:30. E niente. Ora di bere un po'. Grazie.